Ed eccoci, buonasera Gabriele, ben trovato, ben arrivato. Buonasera. Buonasera, sono come Faster? Insomma, quasi. C'ho un po' più di capelli, giusto quello. Allora, come stai Gabriele? Bene, bene, bene. Come sentite, non c'è Faster perché io sono arrivato e ho trovato Prince Faster legato a una sedia, imbavagliato in un angolo. Cioè, veramente una vera opa ostile a questa radio è stata fatta. Ma era la trama di un nuovo film che stavamo provando di fare. Povero Faster, è malato, ha mal di testa. Malanni fantomatici. Comunque va bene, ma lasciamo stare. Allora Gabriele, insomma, che hai fatto sta settimana? Dove sei stato? Allora, questa settimana mi sono visto un sacco di bei film. Devo dire, escono 2-3 film niente male questa settimana. Sono molto contento. Vogliamo cominciare da quelli belli o da quello brutto? Ce n'è uno proprio brutto. Cominciamo da quelli brutti. Allora, ce n'è uno proprio brutto. Anzi, due proprio brutti. Uno è Compromessi Sposi con Diego Abbadantuono e Vincenzo Salemme. E voi direte, perché voi vi conosco, no? Voi avete questo atteggiamento molto superiore, dice, ma che ti aspetti da un film con Abbadantuono e Salemme? Invece no, invece sono bravissimi Abbadantuono e Salemme, ma questo film è terribile, terribile, perché vorrebbe un po' fare Totò Fabrizi e Giovani d'Oggi, quel film in cui Totò e Fabrizi fanno sposare i figli. Anzi, non è che fanno sposare i figli, si innamorano, si mettono insieme, ma loro due in realtà poi si odiano. Quindi c'è, cioè, questa, diciamo, la storia d'amore sullo sfondo, e sono loro due che fanno una serie di gag che culminano con quella più famosa, che si scambiano gli smoking il giorno del matrimonio. Totò si mette quello di Fabrizi, classico. Sì, esatto. In realtà chiaramente il film è anni luce da quella, proprio lì. Cioè, è proprio, non è vero che è quel modello, lo spacciano per quel modello lì, lo spacciano proprio anche perché ci sono alcune battute di Salemme che è piccoletto e Abbadantuono che è grosso, che vogliono un po' imitare. Poi Abbadantuono del nord, Salemme del sud, tutta questa serie chi di cose. Vogliono imitare Stanley e Ollio. No, vogliono imitare un po' Totò e Fabrizi, ma il modello è Io che amo solo te, che è un film di, se non sbaglio, 4 anni fa con Scamarcela Chiatti, ambientato a Polignano a Mare, che è un po', siccome è stato un grande successo, è un po' il modello su cui si fanno molte commedie adesso, cioè una commedia che abbia tanti personaggi, in cui seguiamo le avventure di tutti questi personaggi, scritte veramente alla buona, che tutti quanti devono contribuire alla felicità dei protagonisti, e solitamente la felicità è identificata col matrimonio, perché come ben sappiamo non c'è niente di più felice di un bel matrimonio. Mamma mia, esatto. Che tristezza. Guarda, no, ma io lo odio perché nulla in sé contro i matrimoni degli no, altri. No, però è un luogo comune di altri tempi. Il matrimonismo, cioè questo fatto, no, questo voler contribuire al matrimonio, il culto del matrimonio, sì, sì. E l'abito, e la cosa, è proprio una roba orribile, perché poi si porta con sé tutto quello che invece un pochino stiamo cercando di lasciarci indietro. Assolutamente, il matrimonio come status sociale, quello di dignità, soprattutto per la donna poi. Spesso al cinema è anche sinonimo dei ruoli canonici di uomo, l'uomo è l'uomo, la donna è la donna, e l'uomo c'ha anche un po' l'amante, che però forse è meglio che la smettiamo con l'amante, perché ti devi mettere la testa a posto, e le nonne che stanno a casa e finalmente ti sposi e rammendano l'abito. Cioè, veramente si portano dietro un mondo che uno vorrebbe lasciarsi dietro, invece questi film continuano a promuovere, quindi ideologicamente va bene, sono contro e va bene, ma anche proprio come fattura è un film pessimo. Secondo me annullano anche il potenziale di loro due, che a me, per esempio, a me Abbadantuono mi piace molto, infatti sì, pure a me, eppure Salemme, anche se spesso si butta via, però insomma è uno forte, a me diverte, c'è una gran presenza, però qui veramente buttati via. Perché un'altra cosa tipica di molto cinema, un po' da sempre, cioè lo facevamo anche negli anni 60 quando facevamo un grande cinema, è che questi attori un pochino più importanti, potenti, riconosciuti, serie, c'è molto la tendenza a lasciarli andare a briglia sciolta, come se fosse un titolo di merito. Cioè loro due possono improvvisare come vogliono, possono scriversi le loro battute, non fare. E questo si sente, perché chiaramente non è possibile fare un film così tutto quanto. Io posso capire che ogni tanto loro aggiungano un pochino, ma cioè il buono di un film è quando è scritto bene, fila tutto dritto. Soprattutto su trame trite e ritrite. Esatto, cioè se proprio dobbiamo parlare di matrimonio, beh cavolo, deve essere scritto alla grande sto film. Assolutamente d'accordo. Invece non è questo il caso. Compromessi Sposi, buona fortuna a chi lo va a vedere. Terribile quindi. Terribile. Cioè è il peggiore di tutta la settimana. Beh sì, okay. Possiamo dire va di sì. Va bene. andiamo in graduatoria beh, non si può che non si può che salire, vediamo un po' dopo. Adesso voglio calcolare cosa c'è dopo di questo. Ah, dopo di questo c'è il ricomincio da me, che comunque è brutto, è meglio di questo, ma comunque è brutto. È un film con Jennifer Lopez, che proprio è una categoria, il film con Jennifer Lopez, che una volta lei aveva uno status un po' superiore, cioè adesso è un po', come dire, un po' decaduta Jennifer Lopez, magari anche per sua volontà, non lo so, questo non lo so, però insomma una volta quando era sulla cresta dell'onda i film con Jennifer Lopez si incassavano bene, erano le commedie classiche, sentimentalissime chiaramente. Questo film ha un pregio che devo dire mi piace, a fronte di un'idea che insomma è il classico spunto all'americana, cioè lei lavora in un centro commerciale a livelli bassi, cioè diciamo è capo delle commesse praticamente, perché è una persona del popolo, è una persona del popolo che non ha studiato, però è molto sveglia e ha una serie di idee che funzionano nel centro commerciale, cioè che aumentano le vendite, però al momento della promozione promuovono un altro perché è laureato e lei quindi dice ah, questi laureati, le amiche per aiutarla con il figlio di una di queste amiche le fanno il curriculum falso, che sembra che lei si è laureata ovunque, ha fatto delle cose incredibili, esatto, del genere. E la chiamano ad un mega lavoro a cui la prendono così, quindi lei si trova in una posizione incredibile a capo di della divisione importantissima di una società che fa i prodotti di bellezza femminili, quindi grattacielo, attico, tutti in tagliere, tutti strafighi, e però chiaramente deve sostenere cose che non sa fare. Quando gli dicono, beh, lei nel curriculum ti chiedo che parla perfettamente cinese, no, tutta questa serie di cose, no, che poi non sa fare. Quindi la trama è abbastanza trita, sarebbe il segreto del mio successo praticamente, e un po' anche una donna in carriera, quel tipo di cose là, però dico, fa una cosa che mi piace, cioè solitamente questi film ci mettono la storia d'amore, lei a quel punto si innamora di uno e però questo qui a un certo punto scoprirà, mi hai mentito, non sei laureata, sei una falsa. Invece qui non c'è una storia d'amore e questo lo apprezzo perché un po' afferma l'idea che non è che tipo una donna per realizzarsi poi deve trovare un uomo, ci sarà una linea sentimentale ma non riguarda nulla del lavoro, esatto. Sono parallele, questo sì, già sì, è qualcosa. Non vi voglio dire come e perché è un po' una scoperta del film, se voi siete così sfortunati di andarlo a vedere, almeno il twist della trama ve lo lascio, però questo è apprezzabile, per il resto è veramente filmetto alla buona, sì, senza nessuna plausibilità, una persona ignorante che crea una linea di marketing nuovo, innovativo per i prodotti di bellezza, che poi è un mercato violentissimo, insomma un mercato molto saturo dove ci si mena, veramente fuori dalla grazia di Dio, delle svolte di trama. Senti, però, mi fa venire in mente una serie TV che è stata fatta per qualche anno fa, che si, dal titolo Suits. Esatto, che è vero. Quella era fantastica, però. Sì, era ben scritta. Cioè, dove c'era l'avvocato non avvocato falso, non mi ricordo come si chiamava lui, allora, due protagonisti. Se non ricordo male, lui era uno in questa serie TV preparatissimo sulla legge, che non solo, se non ricordo male, lui faceva gli esami d'avvocato per gli altri, si vendeva, sì, è vero, andava benissimo. Lì, firmava con un altro nome e faceva le cose, vero. Che comincia a lavorare in uno studio, credo per motivi di soldi, pazzesco, bleffando, per caso si trova al colloquio, per cui viene chiamato e viene preso in questo studio pazzesco. Però è bravo, sì. A un certo punto scoprono che non è laureato, però loro lo coprono. Lo coprono per un periodo. Sì. E quindi c'è tutta questa dinamica di lui che è bravissimo, ma esatto. Bellino quello, mi è piaciuto moltissimo quella serie. Comunque, quindi, altro bocciato, ricomincio da me. Bocciatone. Ricomincio da me, e questo qua. Il mio capolavoro, ve lo dico, a me è piaciuto un sacco. È il classico film, che non gli dai una lira, che vai a vedere in un cinemino piccolino, perché questo è un film argentino, quindi pensate voi quali cinema possano farlo, senza attori particolarmente noti, quindi uno entra così alla buona. Invece, che scopertina, è un film su un artista che non gli va più di fare l'artista, che è molto amico del suo gallerista, e cominciano a elaborare una serie di truffe orrende per far schizzare i suoi quadri. Molto divertente, scritto molto bene. Questo film stava al Festival di Venezia, quindi è un film fatto con tutti i crismi, ma molto divertente, molto molto divertente, molto sveglio, molto, insomma, come dire, con una gran testa, ecco, con una gran testa, ironico verso il mondo dell'arte. Ma il regista è francese, Duprat? No, è argentino, ha un cognome che sembra francese. Sì, esatto. Loro tra l'altro sono quelli che avevano fatto, se amate questo tipo di cinema, probabilmente avete visto il loro film precedente, che è ancora più bello, è uno dei miei film preferiti della sua annata, che si chiama Il cittadino illustre. È un film stupendo, da morire dal ridere. Contiene la presentazione PowerPoint più esilarante che io abbia mai visto. E per l'appunto anche quello, anche questo qui, Il cittadino illustre, stava a Venezia anch'esso. Questo bellissimo. Me lo segno. Questo me lo segno. Lo voglio vedere. Esilarante. Tra l'altro, molto intelligente. Il cittadino illustre racconta di questo protagonista che all'inizio del film vince il Nobel per la letteratura. È un grande scrittore, ha vinto il Nobel e dice una cosa fortissima nel ritirarlo. Dice: dandomi il Nobel voi mi avete ammazzato, perché lui sostiene che nel momento in cui una persona come lui prende un premio così grande la sua carriera vera è finita, cioè finisce l'ispirazione, finisce la voglia di scrivere, finisce a diventare un grande vecchio che firma autografi, no, la vita artistica è finita. Allora lo chiamano per insegnare, no, per fare degli incontri nel suo vecchio paesino da cui era scappato, un paesino di provincia terribile argentino da cui era scappato con violenza, lui li odiava questi. Va lì e questi suoi giorni là sono da morire da ridere. Tra l'interesse dei vecchi paesani, molti lo conoscevano, poi a un certo punto il totale disinteresse e lui, che non ve lo dico, però lui c'ha dei piani, chiaramente lui ha una sua idea del perché è andato là, ha tutti dei piani ed è molto carino veramente. Beh, questo sembra simpatico, onestamente mi piace. Invece rivediamolo, quello che esce questa settimana da questi due autori si chiama Il mio capolavoro. Quindi questo è consigliato, Sì, esatto. Ok. Poi l'altro, questo, entriamo nel territorio di quelli che mi sono proprio piaciuti. Questo qui mi è proprio piaciuto, ma ha un piccolo difetto, per questo sta in questa posizione. Si chiama Se la strada potesse parlare. Allora, la prendo da lontana. Io, come immagino molti di voi, perché non è molto noto, non conoscevo James Baldwin, che è una personalità del mondo dell'accademico americano che non è molto nota, perché negli anni 60 e 70 si occupava di studi afroamericani, che è un tipo di disciplina non notissima. No. Poi negli anni 60 e 70 in Italia quello che ce ne poteva fregare degli afroamericani era proprio zero, non ci interessavamo di queste cose. Invece devo dire, l'ho conosciuto perché ho visto un documentario per lavoro un anno fa, bellissimo, che si chiama I Am Not Your Negro, Io Non Sono Il Tuo Negro, che parla proprio, è un documentario su di lui, sulla sua figura, e ho scoperto che mente, ma che proprietà di uso di parola, bravissimo a usare le parole, capace, infatti era spesso, si vedono in quel documentario molte ispezioni televisivi, lui era spesso chiamato in televisione a parlare, a dare il punto di vista degli afroamericani, che insomma negli anni 60 e 70 non è che comparissero spesso in televisione, aveva una capacità di sintesi, in una frase, di sintetizzare un pensiero molto complesso e di dare degli spaccati incredibili sul il perché, cose che oggi sono un pochino più scontate, no? Perché la cultura afroamericana è una cultura e non è semplicemente che noi siamo uguali a voi, che per carità sì, ma abbiamo il nostro specifico, non è che dobbiamo imitarvi, cioè certo. È una cultura a tutti gli effetti. Insomma, ho scoperto questa figura. Ora, questo film si chiama Se la strada potesse parlare, è tratto da un romanzo di James Baldwin, e quindi ero interessatissimo ad andarlo a vedere, e devo dire, il film è realizzato veramente bene, la storia è sia semplice che però scritta benissimo, racconta di anni, mi sembra 70, un ragazzo e una ragazza che si mettono insieme e, come spesso capita nelle storie di quell'epoca e anche un po' come capita nelle storie adesso, ci sarà un caso di ingiustizia nei loro confronti a sfondo razziale. Questo mi rendo conto che è un po' banale, che è una cosa tipica che succede in questi film, però infatti è la cosa che mi piace meno del film, almeno i primi tre quarti, che si concentrano molto sulla loro storia, ma sono bellissimi. Allora, a parte che ha una colonna sonora stupenda, originale, quindi composta oggi, bellissima. Ha un tono che veramente definirei soffice. Il film è un film soffice, veramente intimo. Sembra, se dovessi paragonarlo a un oggetto, questo film sarebbero quei vecchi divani comodi, che sono vecchi ma comodissimi. Quelli a casa delle nonne. Sì, capito. Ci sono dei momenti in questo film veramente di grande intimità, in cui senti l'affetto familiare. Non è un film che vuole essere realista, ha dei colori molto sgargianti, rossi, gialli e neri molto pronunciati, che sono bellissimo caldi proprio, e racconta molto bene questa storia di queste due persone delicatissimi, carinici, veramente commovente, anche se anche prima che gli succedano le cose drammatiche, proprio commovente come stanno insieme. A un certo punto lei rimane incinta, devono dirlo ai genitori, che non è che la prendano benissimo, ma in fondo capiscono. Insomma, è veramente un ritratto intimo molto bello. Poi chiaramente c'è la parte di più, diciamo, di indignazione, che tuttavia devo dire, questa è proprio una questione proprio filmica, credo. Nel momento in cui tu fai un film così, così delicato e così soffice, che ha queste doti straordinarie quando racconti una storia di due persone, nel momento in cui deve diventare un film di indignazione, succede che in realtà, invece che diventare un film incattivito, un film con una certa forza eversiva, come è giusto che sia, diventa un film piagnone, diventa. che non è, almeno mio parere, a me non piace quando affronti un tema in questa maniera, piangendoti addosso, quando in realtà invece magari questi film hanno una forza quando sono duri, sono cattivi, c'è una, no? Reazione, esatto, forte, esatto, no? Polemici. Invece diventa un po' un film piagnone, che è un peccato. Detto ciò, secondo me comunque vale la pena andarlo a vedere. Insomma, non, quel, il finale un pochino più mesto non leva che... Cioè, diciamo che nei giorni a seguire io mi sono dimenticato di quel finale che non andava bene, mi è rimasta invece tutta questa prima parte, questo jazzetto di sottofondo scelto bene. Ma proprio, sai, come quando tu abbini tutto bene, no? Cioè, la musica è abbinata perfettamente ai colori, che sono abbinati a come recitano, che è abbinato alla scrittura. Ah, fila tutto bello, veramente forse un bel film. Un contesto però così morbido, così soffice come hai definito te, sarebbe stato inappropriato forse concludersi, sì, con una botta di vigorosa di una persona che piglia e diventa una rivoluzionaria, una... Sì, forse sì, guarda, forse sì. Del resto sì, è proprio il personaggio che stai raccontando che... magari non aveva la forza di reagire così a un'ingiustizia. Sì, è vero che il film è coerente in questo, in questo è molto, infatti, coerente, però eppure alla fine questa storia non calza questa, sì, certo, chiaramente io non sono un regista e non pretendo di dare delle ricette, cioè, non è che so io come andava fatto, io giudico il prodotto finito e dico a me, certo, piace o non piace questo tipo di svolta, figuriamoci. Però insomma, detto questo, il film interessa, ha 3 nomination agli Oscar, caspita, è nominato per miglior colonna sonora, infatti è da paura, miglior attrice non protagonista, se non sbaglio credo sia la madre di lei, dovrei controllare, che insomma grande attrice, e miglior sceneggiatura adattata ovviamente dal romanzo di James Baldwin. Infatti secondo me si chiama, ripeto, Se la strada potesse parlare, forse una delle tre, forse la colonna sonora la porta a casa, potrebbe, perché è buona, molto addirittura buona addirittura. E allora tocca ascoltarla quella, io me l'ascolto benissimo, tutti i giorni, ce l'ho a rotazione, ce l'hai a rotazione. Bene bene, me la procuro, me la procuro senza meno. Ma andiamo avanti nella tua escalation. Oh, allora, perché c'è un altro film molto bello, insomma, nella categoria molto belli, che questo è uno dei film centrali di questa stagione degli Oscar, perché assieme a Roma, il film di Alfonso Cuarón che sta su Netflix, questo qui è quello che ha preso più nomination in assoluto. Ah, Roma poi è uscito, quello di Romolo e Remo. No, a questo ne parliamo dopo. Allora, Roma è il film di Alfonso Cuarón che, nonostante il nome, non ha niente a che vedere con fare Roma. Okay, okay. Perché, pensate, Roma è il nome di un quartiere di Città del Messico. Sì, pensate, sì, ok, no? È vero, l'avevi detto. È un raccontato film su Città del Messico, in realtà, che lo trovate su Netflix, perché è un film di Netflix. Ha fatto un piccolo passaggio in sala, insomma, molto rapido, ma sta su Netflix. E ha 10 nomination. Ma anche questo qui, che si chiama La Favorita, ha 10 nomination. È un film, allora, se vi ricordate, se siete degli ascoltatori di Celluloide e Celluloide attenti, ricorderete che settimana scorsa abbiamo parlato di Maria Regina di Scozia, film in costume su Maria Stuarda. Questi sono i film che Faster si addormenta, si mette a fare altre cose, esce, va al bagno, mentre voi non lo vedete, no, proprio si mette a fare altre Facebook cose, sì, esatto. Maria Regina, come dice, ah, vedi, però guarda quanto parla, perché lui fa altre cose. Maria Regina di Scozia era il film su Maria Stuarda e la regina Elisabetta I. Ora, un anno e mezzo fa, quando Maria Regina di Scozia... Fast scrive, dobbiamo fare i miliardi, Vasquez, facciamo un remake del film Il Treno. Grande, ma magari, Il Treno è uno dei miei film preferiti. Mannaggia. Dicevo, Maria Regina di Scozia, un anno e mezzo fa, quando, diciamo, era nella fase che lo stavano lavorando, lo stavano facendo, era, diciamo, destinato alla stagione degli Oscar, perché gli americani, ovviamente, questo anche gli italiani, gli americani quando cominciano a fare un film lo sanno già se sarà un film, grandi virgolette, da Oscar, se sarà un film che poi avrà quel tipo di vita, lo fanno anche un po' nell'ottica di farlo gareggiare, e tipicamente i film in costume ci possono arrivare facilmente, è un tipo di film che piace all'Academy. Insomma, Maria Regina di Scozia doveva essere un film da Oscar, anche loro due, Margot Robbie e Saoirse Ronan, le attrici erano pronte per le nomination e tutto quanto, ma invece La Favorita l'ha superata a destra, che La Favorita, dai, anche è un film in costume, è un film su una regina inglese, quindi praticamente ha preso quel posto, ha preso quello slot. E nessuno l'avrebbe detto, perché La Favorita, al contrario di Maria Regina di Scozia, La Favorita è un outsider, è un film a produzione britannica, quindi comunque anglosassone, con due star, ci sta Rachel Weisz e Emma Stone, quindi non è che sia, no, non è un film piccolino, è un film comunque importante, ma è diretto da un regista greco che fino a poco tempo fa faceva i film da festival, quindi non propriamente, no, uno di sistema. È un film molto particolare, che però ha incontrato, adesso gioco di parole, La Favorita ha incontrato i favori dell'Academy, Che racconta? Racconta della regina Anna, e questo è un fatto vero, anzi vi dico solo prima il fatto vero. La regina Anna, che era una regina, una delle molte regine d'Inghilterra, l'ultima della dinastia Stuart, aveva una favorita, cioè si sa che c'era questa donna a corte, moglie di un lord, quindi posizionata, insomma, che aveva un ascendente, aveva un'influenza sulla regina. E si sa che a un certo punto è arrivata un'altra nobile a corte. Queste due hanno avuto un po' di un po' di contrasti, e quest'altra è diventata la nuova favorita. Era, cioè, una persona che, come dicono un po' gli inglesi, parlava all'orecchio della regina, diciamo. Quindi forti personalità femminili, esatto. mi piace questa cosa. Allora, il film, come a me piace molto questo atteggiamento, il film prende questo piccolo fatto e ci crea un romanzone intorno, tutto fasullo, tutto inventato, come secondo me è giusto che sia, cioè la storia è un pretesto per raccontare altro, raccontare quello che premia il regista, non le cose vere. Quindi fa diventare, non so se sia vero, fa diventare la regina Anna una donna con preferenze sessuali femminili, una lesbica, che non so se lo fosse o meno, e queste due donne, e non solo, soprattutto la ritrae come una scema. Cioè la regina Anna, soprattutto, era una donna che aveva sofferto molto, cioè aveva avuto 9 aborti spontanei, cioè una roba che non so neanche immaginare. Era una donna semplicemente che non poteva avere figli, ma che in quanto regina era tenuta ad averli, certo. Per cui andavano avanti senza sosta, e alla fine non ce l'ha mai fatta ad avere figli, per cui era una donna abbastanza infelice e, come dire, affaticata nel fisico, con mille problemi fisici, mille veramente, e un po' scema, così la ritrae il film, una facile a essere abbindolata. Ingenua. Sì, esatto, ingenua anche molto, è una regina molto capricciosa, una bambina viziata sostanzialmente. E queste due invece sono due intelligenze incredibili, due donne pazzesche che lavorano un po' di favori sessuali, un po' di intelligenza. E già il film a me mi fa impazzire perché ci sono queste tre donne che sono le protagoniste del film, che hanno un atteggiamento, è brutto dire da uomo, però insomma hanno un atteggiamento che solitamente nei film è lasciato agli uomini, cioè si interessano al potere, sono molto serie, e tutti gli uomini invece del film sono vestiti come ci si vestiva all'epoca, con i parrucconi, molto truccati, fanno solo cose stupide, cioè hanno quell'atteggiamento che solitamente le donne hanno nei film, quindi il film già scambia tutti i ruoli ed è molto divertente questa cosa. Bello questo. Sì, molto sveglio. Mi ricordo nell'altro film dicevi quello della regina Maria Regina di Scozia. Della regina di Scozia invece ci prendeva le botte nonostante fosse la donna, esatto. Potente. Gli menavano lo stesso. E invece qui il paradosso c'è. Esatto, cioè, esatto. E ci piace di più. Non solo, loro, come dicevo, sono due grandi intelligenze, queste donne che si combattono il ruolo di favorita. Il film è molto ironico, è molto divertente, ha un umorismo grottesco, cioè non, chiaramente non è un umorismo di torte in faccia, è un umorismo un po' crudele, di trovate, sì, esatto, molto sveglio. È ripreso a un look, cioè perché... Allora, non vi voglio dire ha una bella fotografia, perché solitamente quando uno dice una bella fotografia, giustamente chi ascolta dice, vabbè, ma anche chi se ne frega. In realtà... ha una bella fotografia, ma vuol dire che ha un look molto personale, molto originale. Quando lo guardi dice, ah, finalmente è un film che non sembra come tutti gli altri. Già a vederlo ha una personalità, insomma, è interessante, è intrigante. Per dire, è tutto girato con luce naturale. Vuol dire che non, sul set non c'erano mai i fari, i faretti, ma si usava la luce del sole. Se c'è il sole, se non c'è il sole, si usano le candele, si usa quello che c'è. Il che gli dà un tono, insomma, un pochino più frizzante, un pochino più sveglio. Chiaramente, questo è facile a dirsi, è un cineasta europeo con una testa da cineasta d'autore festival che si mette a fare un film commerciale, quindi vuol dire che è uno super sofisticato, che il cinema lo padroneggia ad un livello che non vi sto neanche a dire, perché è come paragonare un musicista che fa musica rock, con tutto il rispetto, con uno che fa la classica, cioè c'è una padronanza del mezzo che non vi sto neanche a dire, che decide di fare una cosa un po' di parte sei che decide di fare una cosa anche molto commerciale con le star e punta all'Oscar. Infatti vediamo, come io sono molto curioso di vedere come va questo film. Lui, Yorgos Lanthimos. Yorgos. Siccome va un po' di moda, magari l'avete visto alcuni suoi film, lui ha fatto, gli ultimi più noti sono Il sacrificio del cervo sacro, durissimo, con Colin Farrell, durissimo, e quello precedente ancora si chiamava Lobster, che non è niente male. Addirittura, se siete veramente dei veri appassionati, già lo sapete, quelli greci si chiamavano Dogtooth, Alps, e non mi ricordo l'altro. Lobster, Alps, Attenberg, Dog Tooth. Attenberg, credo che non sia uscito adesso, non vorrei sbagliare, mi sa che da noi non è uscito. 2010, comunque sì. Io non l'ho visto Attenberg, però Dog to the Alps l'ho visto, sono un pochino tosti, cioè tosti anche per me che ho uno stomaco forte. Mentre invece Lobster e Sacrificio del Cervo Sacro sono cioè ci sono le star americane, quindi sono più commerciali. L'ho visto, ma non mi ricordo assolutamente Lobster nulla. C'ha uno spunto che devo dire già fa ridere. Lobster è in una specie di presente alternativo, presente che non è il nostro presente, è vietato essere single. È vietato essere single oltre una certa età. E le persone, se a un certo punto non si accoppiano entro una certa età, vengono trasformate in animali. Per cui vanno in questa specie di centro, come un ritiro, no? Come un grande albergo in centro, dove c'è l'ultima possibilità di accoppiarsi. Uomini e donne sono da solo, cercano di essere accoppiati e intanto devono comunque decidere che animale saranno se non ce la fanno. È una cosa molto divertente, anche molto visionario lui, fantastico. Quello appartiene a questo qui, che si chiama per l'appunto The Lobster, appartiene ancora ai film che erano più dal lato festivaliero, strano, ma cominciava a essere commerciale comunque. Poi finirà tra i ribelli, vabbè, lì ancora peggio tra i ribelli, ancora più ridicolo. E invece quello successivo, Il Sacrificio del Cervo Sacro, è su un uomo, anche quello ha un che di fantastico, è su un uomo e una famiglia che vengono maledetti da un ragazzo perché c'è di mezzo, se non sbaglio, la morte del padre di questo ragazzo, il protagonista, sempre Colin Farrell, l'ha causata in maniera involontaria. Adesso non mi ricordo esattamente il gangolo della trama. Chirurgo cardiotoracico. Esatto. Quindi mi sembra con Nicole Kidman. Caspita. E gli maledice il figlio e comincia a stare malissimo. La cosa chiaramente è una trama molto grave, in realtà anche qui ci sono degli spunti ironici, ma insomma è un film molto duro anche questo. È un cineasta veramente interessante che per la prima volta fa un film apertamente commerciale proprio 100%. E questo a me mi interessa molto, nel senso, mi interessa molto come qualcuno di molto sofisticato usa il cinema d'autore come avanguardia per farsi strada poi portare quelle soluzioni, quelle idee, renderle per tutti mainstream. Fantastico, questa è proprio una chiave eccezionale. Magari tutti fossero così. Anche perché pensa, lui raccontava una cosa incredibile. Io l'avevo intervistato diverse volte quando faceva i film greci, che li portava ai festival, quindi veramente non era nessuno, anche se erano interessanti. E lui raccontava una cosa che fa morire da ridere, ma qui non avevo pensato. In Grecia, come sapete, la cinematografia greca non è grande, cioè loro non fanno parecchi film e quindi non esiste un'industria del cinema. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esistono delle case di produzione, non esistono degli studios, non esiste un'associazione degli attori. È di fatto cinema amatoriale, cioè tu sei un regista, ti affitti dei mezzi, conosco degli attori di teatro, c'è uno che fa la fotografia, li metti insieme tu personalmente e via, e si fa il film, si affitta un posto, non è una cosa strutturata. Per cui lui almeno i primi tre film li ha fatti così, anche se hanno un look, poi sono andati a Cannes, sono andati insomma in posti importanti, per cui hanno un look molto sofisticato, sono fatti benissimo, però si lavora in maniera amatoriale di fatto, ed è una cosa affascinantissima. Chiaramente la forza di una persona che ha una testa talmente forte che riesce a creare cinema con magari trovando anche delle brave maestranze, perché le persone brave esistono dovunque, però insomma senza una struttura che lo supporti, senza una macchina che gli stia dietro. Guarda, mi hai convinto, adesso sono curiosissima di andarmi a vedere soprattutto quelli greci. Quelli che sono duri, tosti. Ma io sono un buon pelo sullo stomaco, insomma, non resisto. Bene, benissimo, quindi La Favorita, un voto ottimo. Tra i migliori di questa settimana, ma non quanto... Addirittura. Non quanto... Addirittura. Ebbè, un bel film, Creed 2. No. Guarda, infatti, Creed 2 è un signor... E qui ci voleva Faster, mo lo chiamiamo. No, Creed 2 è un signor film. Dai. Allora. Le americanate. No, allora... Wow. Santi Dio. Allora, calmiamoci. Assolutamente calmiamoci, prima cosa. Cominciamo da una cosa. Non è possibile pensare di andare a vedere un film americano volendogli cambiare la testa. Cioè tu non puoi cambiare la testa agli americani. Loro sono fatti così e tu li accetti così nella stessa maniera in cui io accetto i giapponesi, che sono strani forte. Sì, esatto, sono strani forti, però tu li accetti come sono, anche se alcune cose magari non le capisci, non sei d'accordo. Io avrei fatto diversamente magari. Vogliamo parlare dei film giapponesi? No, figurati, apri la porta aperta. Però nella stessa maniera non discuti gli americani, cioè io posso non essere d'accordo magari con un certo idea di patriottismo, con certe cose posso non essere d'accordo, però io le accetto ok, accetto che voi siete così, vediamo com'è questo film. Allora, andiamo con calma. Cos'è Creed 2 per chi non ha neanche idea di cosa stiamo parlando? Creed 2 è... prendi fiato. È un sospiro. Il era. Sequel dello spin-off. Attenzione. Mamma. Sì. Allora, Creed è lo spin-off della serie di Rocky. Uh-huh. I film di Rocky sono 6, come sapete. Uno più bello dell'altro. E, stupendi proprio. E Creed è il primo, quello che è uscito 3 anni fa, è un film sul figlio di Apollo Creed. Apollo Creed è il classico sfidante di Rocky, anzi era il campione, Rocky era lo sfidante, che poi è diventato l'allenatore di Rocky in Rocky 3 e poi è morto sotto i colpi di Ivan Drago in Rocky 4. E poi Rocky ha vendicato. Quindi Creed è suo figlio, Adonis Creed si chiama il figlio, e devo dire, con tua grande soddisfazione, il primo film, Creed 1, uh-huh. a me ha fatto veramente schifo, cioè proprio un film che avevo disprezzato altamente, perché non aveva veramente il cuore dei film di Rocky, non aveva quel tipo di storia, non aveva quel tipo di idee, di sentimenti attaccati. C'era chiaramente in Creed 1 Rocky, cioè Sylvester Stallone c'era, diventava l'allenatore di Adonis Creed, però insomma a me veramente non era piaciuto proprio, sembrava la brutta copia di serie B dei film di Rocky, era terribile. Quindi io avevo ancora meno aspettative per Creed 2, figuriamoci. Però tutto è cambiato quando io ho letto chi ha scritto Creed 2, e l'ha scritto Sylvester in persona, che non aveva scritto appunto Creed 1. Allora Sylvester Stallone ha scritto tutti i Rocky e li ha diretti quasi tutti, tranne un paio, quasi tutti. Con Rocky 1 ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatore, questo per dire. Creed 1 non l'aveva scritto lui, adesso lasciamo stare le motivazioni, comunque non l'aveva scritto lui. Il film è andato bene, Creed 1, nonostante a me non fosse piaciuto, è comunque andato bene. nonostante la tua influenza, esatto, la mia importante nel parere influenza negativo, niente, è andata bene. Assurdo, ma guarda te, assurdo, alle volte la gente. E quindi lui il secondo l'ha voluto scrivere, e non ci poteva essere decisione migliore, perché lui è una penna incredibile, incredibile veramente. Allora, questo film è pieno di cose stupende. Che storia racconta? Adesso io vi racconto la storia, però anche voi calmatevi, perché io già... qui sono le tipiche storie che tu dici: oddio, ho capito. Invece no, calmatevi. Vuoi sentire il trailer? Va, sentiamo il trailer. Creiamo questo hype. Andiamo un po'. Mi piace fare. È come non esistere. E ora, ragazzo? Ma c'è sempre Stallone? Certo che c'è. No, mi alzo e me ne vado se non c'è Stallone. Cioè. Ora non gli importa più niente di niente. Me compresa. È una decisione importante, pensaci bene. Tu hai qualcuno che ha bisogno di te ora. Accetto la sfida. Victor Drago, figlio di Ivan Drago, che in modo infame uccise Apollo Creed, ha ufficialmente lanciato oggi una sfida ad Adonis Creed. Non lo fare. Non ho altra scelta. La stessa cosa che mi disse tuo padre, e mi morì qui, tra queste mani. Quel ragazzo è cresciuto nell'odio. È pericoloso. Mi ha aperto ferite che non guariranno mai. Non ne vale la pena. Vabbè, terrificante. Allora, no, terrificante. Allora, andiamo con calma. Come avete sentito, c'è di mezzo il figlio di Ivan Drago. Chi è Ivan Drago? È il pugile che in Rocky 4 1985 uccideva in un incontro sul ring Apollo Creed, il padre del protagonista di Creed. Quindi è sostanzialmente il figlio di Apollo Creed che si scontra sul ring con il figlio di Ivan Drago, Victor Drago. Che capisco che sulla carta, infatti anch'io ero un po' demoralizzato, sulla carta non è sta gran trama, perché chiaramente non è proprio il massimo. Però il miracolo che ha fatto Stallone, ed è straordinario, è che ha scritto sia il personaggio di Ivan Drago, il vecchio Ivan Drago, chiaramente, sempre lui, Dolph Lundgren, lo stesso attore ovviamente, e di suo figlio, e il rapporto che loro hanno in una maniera straordinaria. Ora, io di questi film, dei film della serie Creed, non sopporto il protagonista, Adonis Creed. Secondo me è un personaggio terribile, cioè proprio veramente un bambino viziato con dei problemi da primo mondo, terribile. Però questo film recupera la vera anima di Rocky con questa famiglia Drago, che è stupenda. Allora, cosa è successo alla famiglia Drago? Come vi ricorderete, in Rocky 4, Rocky vince l'incontro a Mosca davanti al Soviet Supremo e praticamente chiude lui la guerra fredda. Cioè, Rocky vince la guerra fredda da solo, su un ring, battendo Ivan Drago, che era il grande portavoce della Russia sovietica contro gli americani. Mm-hmm. E, come potrete immaginare, da lì in poi Ivan Drago cade in disgrazia. Ci viene raccontato in questo nuovo film che per lui sono stati 30 anni di incubo. Poverino, perché... me lo immagino a vendere matriosche. Ma praticamente. E ha cresciuto questo figlio, come dice nel trailer, nell'odio, nel risentimento. Okay. E questa è una cosa molto importante, perché tutto Rocky e anche un po' tutta la filmografia di Stallone insegna una cosa molto forte, cioè che la sconfitta è un momento determinante per la vittoria. Cioè, non si è uomini se non si perde, non si sa perdere. Come sapete benissimo che nei film di Rocky lui molto spesso perde nel primo Rocky alla fine, ed è un momento incredibile, perde in Rocky 3 per poi tornare a vincere, ed è proprio perché ha perso che riesce a vincere. Cioè, non c'è vera vittoria se non c'è una sconfitta prima, che è una cosa grandissima. Ecco, in questo film Drago, che è un perdente ovviamente, tu capisci che ha vissuto in un sistema, quello sovietico e post sovietico dopo, che invece non gli ha insegnato ad imparare dalle sconfitte. È un uomo che non ha saputo imparare dalla sconfitta che è successa. È proprio veramente il rovescio della medaglia di Rocky. Se Rocky ogni volta che perde torna più grande, più forte, perché la grandezza dell'uomo è quella di sapersi rialzare. Drago invece viveva in un sistema, chiaramente questo è un film patriottico, non lo sto neanche a dire, viveva in un filo americano in qualcosa di esistenziale e profondo. Ma è vero, ma viveva in un sistema che era quello sovietico, che invece aveva la paura della sconfitta. Chi ha perso è l'ultimo anello della società, e lui ha cresciuto il figlio per la grande rivincita. Ora, loro due hanno un rapporto stupendo, cioè Drago padre e Drago figlio è una roba stupenda. Dico solo che la prima scena, uh-huh, la prima scena è inquadratura dall'alto, tipo elicottero, ma sarà un drone proprio, cioè, inquadratura dall'alto di questo grattacielo orribile, periferia ucraina, cioè roba proprio terribile, dentro casa bruttissima, si sveglia Ivan Drago mattina presto, si alza, va spettinato, sì, spettinatissimo, oddio mio, va in camera del figlio che sta dormendo. Il figlio è praticamente, non lo so, è un armadio enorme, è un Daily Veco con le braccia, cioè una cosa che non si racconta nemmeno. Va nella stanza del figlio e lo sveglia con un cazzotto in pieno petto. Però non è una cosa di cattiveria, no, questa è la cosa bella, che in qualsiasi film sarebbe tipo una tortura. In realtà, a parte che ha uno con quel fisico, è un gesto affettuoso del babbo, ma a parte che uno con quel fisico, cioè, gli dovete a roncolate per fargli sentire qualcosa. Però comunque, capisci che queste due persone comunicano con i pugni, e quello non è un pugno cattivo, è un pugno di oh, svegliati. E loro, è la loro forma di comunicazione, e in quella cosa c'è della dolcezza. E questa è la grandezza del film, che riesce a stabilire tra queste due persone, che non si parlano molto, diciamo, hanno una comunicazione non verbale, tipo Romolo e Remo, esatto, comunicazione non verbale, diciamo, molto forte. E non vi dico ovviamente quello che succede, ma la loro parabola nel film è stupenda, ed è questo, arriviamo qui, è la cosa che non mi piace del film. Purtroppo, in questo film che a me è piaciuto, c'è una cosa che non mi piace. Questo film non crede in questa storia. Cioè, questa storia che è stupenda è marginale. Quella principale sarà quella di Adonis Creed, il protagonista, certo, che ha tutte le sue cose totalmente non interessanti. Però, secondo me, lo stesso, anche questi pochi decine di minuti che sono riservati alla trama dei cattivi, diciamo, grandi virgolette, che poi non è che siano cattivi, però insomma, degli sfidanti, vale la pena per il film. È l'unica parte che ricorda l'educazione siberiana a questo punto. Te lo dico. Dico, io alla fine, onestamente, mi sono commosso. Perché veramente, come finisce questa storia è bellissimo. Ma hai avuto problemi questa settimana in famiglia? È che bellissimo. Cioè, dai, come hai fatto a commuoverti? È l'essenza, guarda, te lo direi, ma non te lo posso dire perché gli rovino tutto il film. Ma è l'essenza di essere uomini. Se vi siete mai commossi vedendo i film di Rocky, io tutti, se vi siete mai commossi vedendo i film di Rocky, beh, questo fa per voi tutta la vita. Va bene, Gabriele, io rispetto il tuo punto di vista in quanto critico esperto, ne prendo atto. E che dire, il miglior film della settimana? Beh sì, beh sì. anche se non è nominato a nessun Oscar, ma e lo c'è stesso. E ci credo, insomma. Ma ancora Stallone, c'è Stallone ha vinto tutto, un Oscar, Stallone tutto ha vinto scocciato un in faccia che si tiene in piedi. Grazie, Stallone c'ha un ingresso in scena, questo ve lo posso raccontare perché è la prima scena. C'ha un ingresso in scena stupendo. Allora, spogliatoio di Adonis che sta per fare un incontro, c'è un po' di gente, c'è un po' quella tensione prima dell'incontro. A un certo punto cominciano a uscire tutti dallo spogliatoio spontaneamente perché ognuno va a fare una cosa. La macchina da presa un po' si muove, si sente la voce fuori campo di Stallone e comincia a dirgli delle cose, che è il discorso, quello pre-incontro, quello che ti carica. Esce asciugandosi le mani dal bagno e cominciano a parlare, e mentre parla comincia a dare dei pugni nel vuoto, come se lo aiutasse a parlare, dare dei pugni nel vuoto. E questa cosa crea la tensione del pre-incontro, lo carica, e insieme anche qui comunicano con queste specie di pugnetti che si danno, un po' di allenamento, un po' di stretching, ed è un'entrata in scena veramente clamorosa, mi ha fatto godere tantissimo. Fantastico. Senti, invece ci fanno una domanda molto più seria sull'Antimos. Va bene. Ecco, la mando in diretta. Aspetta che blocco qua. Ma aspetta. Signora Mignola, che ma perché continua? Insomma, è un intenditore di... Guarda, questo è Onofrio. Buonasera, sono Onofrio. Vorrei chiedere al signor Mignola, che vedo che insomma è un intenditore di cinema, cosa ne pensa lui di alcuni film del filone più popolare che hanno avuto una certa incidenza nella cultura italiana. Quindi vorrei un suo parere su film come Giovannona Coscialunga. Non era sull'Antimos la domanda. Grazie. No, allora la domanda è pregnante, esaurirò questa cosa in fretta, La domanda è pregnante, nel senso che, come tutti quanti sapete, questi film erano popolarissimi negli anni 60 e 70, sono stati disprezzatissimi nei loro anni, poi a un certo punto, a fine anni 90, sono stati totalmente rivalutati più che altro dal Manifesto, anzi da Marco Comunque, Giusti. Scusami, questa era un'incursione di Radio Kalashnikov. Perché ho riconosciuto il caro Onofrio. Comunque, no, continua. Marco Giusti, che è un grandissimo critico, a fine anni 90 ha cominciato la grande rivalutazione di questi film, e c'è stata una grande incomprensione, cioè che questa rivalutazione volesse dire sono dei capolavori. Questa è una grande non vuol dire questo, cioè non vuol dire che tipo sono come Fellini. No. Rimangono dei film scritti e girati ma veramente con i piedi, ma anche non solo da gente non capace che lo faceva anche in fretta, quindi proprio veramente una robaccia. Tuttavia quello che ad oggi, quello che anche penso anch'io, che mi sembra più giusto, è che quel cinema non ha nessun senso disprezzarlo. Ha senso riconoscere che non è un cinema particolarmente sofisticato, non è un cinema fatto molto bene, non è che ci sia molto da imparare, ma aveva, primo, una cosa che qualsiasi film dovrebbe avere: un rapporto onesto con il pubblico. Cioè, quelli sono film che non hanno mai deluso nessuno, ognuno sapeva cosa andava a vedere e se tu cercavi quella cosa te la dava. Primo, erano film che riempivano le sale, e voi mi direte sì, ma incassare non è un valore di per sé. Un po' sì, in realtà, e soprattutto farlo in una maniera godereccia, cioè non erano film bigotti, non erano film come dire che avevano un doppio fine, erano film molto liberi, erano frutto del fatto che noi abbiamo vissuto sotto il gioco, diciamo, della cultura cattolica per tanti anni. A un certo punto abbiamo cominciato a liberarcene, e come spesso accade quando tu rimani prigioniero tanti anni, c'è un momento di libertà che scappa da tutte le parti. Sì, assolutamente. Esatto. E quindi c'era voglia di esagerare. Che poi erano messi sempre in chiave ironica, molto comica. Sì, esatto. Per cui era l'unico modo in cui si poteva fare dell'erotismo, tra virgolette. Esatto, erano rosa, orrendi. No? Erano i film a luci rosa, nemmeno sì, sì, rosse. Sì, esatto. Erano pieni di doppi sensi che oggi sono un po' ridicoli. Sì. Le cose. Certo, poi io ammetto anche che se tu prendi 30 di questi film, che sono pure pochi perché saranno 300 in realtà questi film, comunque se ne prendi 30, dentro questi 30 sicuramente tu trovi almeno 7-8 momenti, dici, beh, questo è un bel momento, cioè un momento molto divertente, ben costruito, però sono film che vivono molto meglio di clip che di film intero, perché ogni tanto usciva dentro qualcosa, ogni tanto c'era qualche attore particolarmente competente. C'è un famoso pezzo, guarda, mi viene in mente perché Faster l'ha postato oggi, un famoso pezzo di Gigi Reder e Lino Banfi insieme, una cosa di Equivoci, che funziona molto bene, c'è poco da dire, funziona. Beh, i testi erano sicuramente studiati molto più di quanto sono fatti alcuni film adesso, Cioè, beh, sì, sì, anche alcuni film dell'epoca. Insomma, come dire, non aveva nessun senso pensare che, e questa è la rivalutazione, pensare che questi film fossero opposti ai grandi film, che so, L'ultimo tango a Parigi, certo, cose qua. Sono complementari. Io posso vedere questo e vedere quello contemporaneamente. Mi può piacere tranquillamente Fellini e questa roba qua in maniere diverse, a gradi diversi e con, certo, magari interessi diversi. Ma lo stesso non sono da combattere, perché all'epoca erano da combattere quei film. Invece no, sono una parte sana di un sistema cinematografico. Certo. Senti, per questa settimana praticamente è tutto? Sì, tu però prima hai menzionato una cosa che mi preme sottolineare, ma con la quale però vi rimando a settimana prossima. Del cinema giapponese? No, no, del film di Romolo e Remo. Ah sì, dammi qualche news su quello. Non si chiama Roma, si chiama Il Primo Re. Il Primo Re. È un film appunto sulla fondazione di Roma, anzi diciamo più su Romolo e Remo, perché non c'è la fondazione di Roma, e l'ho visto. L'hai visto? Perché esce il 31 gennaio e l'ho visto! E allora? Guarda, è onestamente il film che io più attendo, anzi il secondo film che più attendevo di questa stagione, e vi dico subito una cosa, non ho un'opinione chiara in merito, cioè non è che posso dire sì o no, e già molti mi diranno, cavolo, speravo fosse un sì, chiaramente sì. Certo. Vi posso dire una cosa, è a livello dello standard internazionale, cioè non è un film che sembra italiano, non è un'italianata, né dal punto di vista visivo, anzi visivamente è clamoroso, veramente... Cioè, se entraste bendati al cinema potreste dire che state guardando un film straniero. Né a livello di scrittura, e spesso i film italiani un po' calano con la scrittura perché sembra quelle bagatelle da poco, quelle questioncine scritte male, invece no, molto serio, recitato bene. Secondo me ha dei problemi che sono complicati da spiegare, che spiegheremo più magari settimana prossima, che si sentono più nella seconda parte. Detto ciò, io è un film che io consiglio a tutti, poi magari ne discutiamo. Ma non è pesante che non parlano in latino arcaico? Allora, lì, sì, parlano in latino proto arcaico sottotitolato, ma vi posso consolare, non è che parlino tantissimo nel film, quindi no. Questa cosa è, poi tra l'altro ci sta benissimo, perché provate a immaginare un film fatto bene, quindi con loro che sembrano veramente l'uomo primitivo, perché Romolo e Remo erano prima degli antichi romani, quindi è uomo primitivo, quindi truccati bene, cioè con i denti spaccati, la gente strabica, le cose, quella roba proprio, che parlano italiano, cioè è una roba inaccettabile, non è proprio possibile, per cui l'unica cosa sensata era fare questo. Io, secondo me, è un film che dovete, se vi interessano queste cose, andare a vedere. Poi magari qualcuno mi dirà, però non sono d'accordo, ma secondo me poteva essere meglio, ognuno avrà i suoi pareri, però secondo me è proprio un film che va visto, perché credo che chiunque potrà concordare, viva la faccia, viva la faccia che abbiamo fatto un film del genere. Bene, anche questo vale la pena vedere, quindi. Sì. Senti, poi domanda spot che ti faccio, però vorrei che me ne parlassi poi la prossima settimana, del film cinema giapponese. Sì. Io ho due film nel cuore. Vai. Uno è Dolls. Sì, bel Takeshi Kitano, bellissimo. Di Kitano. E l'altro è Departure. The? Departure. Partenza. Ah, quello di 5 anni fa. Del Tanato Esteta. Sì. Del Tanato Esteta, giusto. Ok, giusto. Quello che vinse, dimmi l'Oscar. Un sì o no rispetto ai due film e poi me ne parli la prossima settimana. Allora, Departures per me alla fine della fiera è un no. Mentre invece Dolls, sì, tutta la vita. Io sono un malato di Kitano. Anche se però posso dirti una cosa, cioè Dolls sì, però se devo scegliere il mio film preferito di Kitano non è quello. Ce ne sono due o tre che io preferisco. Ah. Detto ciò, comunque è un grande film. Bene, okay, bene. Va bene, Gabriele, che dire? Ci hai raccontato tutto, vuoi raccontarci qualcos'altro? No, direi che basta così, è abbastanza, esatto. Direi. E allora, niente, la prossima settimana vieni o marchi anche tu? No, prossima settimana vengo, sì, prossima settimana vengo, sì, sicuro. Un caro saluto a chi ci segue da casa col mal di testa. O che dice di avere il mal di testa. Poi questo treno, ma che è questa cosa? Il treno è un film bellissimo. Il treno, chiunque non l'abbia visto lo deve vedere. È un film degli anni 60 con Burt Lancaster ed è il primo film con l'oggetto in movimento. Cioè, tipo, avete presente Speed, quel film con Keanu Reeves? No, sono i film con oggetti in movimento in cui c'è un qualcosa che non si può fermare. Questo qui ha inventato quel genere, coi treni, che mi viene da dire... Col pullman è facile, è col treno che è difficile. Cioè vai a girare un film con i treni che si muovono continuamente. Burt Lancaster senza controfigure sale e scende dai treni in corsa. Cioè è un film d'azione di Cristo degli anni 60 con una trama che a me piace molto, ve la dico in due parole. Lui è una trama tipica dei film di guerra. Seconda guerra mondiale, Francia. Lui è il capostazione di una stazione non grande, una stazione piccolina. Chiaramente occupazione, ci sono i nazisti in Francia, lui non gliene frega niente del conflitto, cioè io collaboro con i nazisti, non voglio guai, non ho fervori patriottici, però accade che i nazisti stanno sbarcando tutto, perché hanno capito che la guerra sta finendo e hanno capito che non ce la faranno a tenere la Francia, quindi se ne stanno andando di corsa e si stanno portando dietro i quadri del Louvre, si stanno, stanno arraffando tutto quello che possono arraffare. Ho capito. Un altro macchinista lì, molto più vecchio, più anziano, sì, un ciccione molto più anche popolano di Burt Lancaster, che invece è un capo più sofisticato, quando viene a sapere che stanno rubando i gioielli di Francia, che questo è uno che tipicamente tu capisci che non sa niente di arte, certo, però tipico francese, se gli salta la mosca al naso che questi si vogliono fregare le cose nostre, la grandezza della Francia, ma stiamo scherzando, sabota il treno con cui i nazisti dovrebbero partire. I nazisti lo scoprono e lo fucilano, a questo, questo è l'inizio del film. E per Burt Lancaster adesso è una questione personale, cioè adesso voi non ve ne andate di qua, cioè non esiste. E si mette a fare da solo una guerra contro i treni, ma è una cosa stupenda. Proprio. Voglio proprio vedere qual è il remake che hai in mente, Faster. Sì, non sarà facile fare il remake, effettivamente. Aiuto, vabbè. Allora Gabriele, grazie mille e niente, ci sentiamo la prossima settimana. Senz'altro. Va bene. Dai. Ciao caro, ciao.